Parte prima. Adolescenza fragile guerriera. E fui fatta maschio, soldata del Signore, carismatica martire felicemente, atleta Cristi. Leccavo miele, sgranocchiavo locuste. Santa allegrezza, pensavo che non ce l'avrei mai fatta a darmi in pasto alle belve. Ma tutta nuda, rivestita di Cristo, che godimento essere sbranata, che sensi ariosi provai da sbrindellata. Poi presi una storta e fui smidollata, smorta. Pelle, capelli, unghie cominciarono a ispessire, ebbi ghiandole ovunque, rigonfie, pieghe e folti. E fui fatta femmina, mollemente uscita viva dal guaio della nascita. Si levò un forte odore di corpo in quel cicatriziale cambio d'abito. Contro del re dell'universo gridavano anacoreta e amorosa, anacoreta e vergognosa. Anacoreta vergognosa si vergognava della sua pulcritudine, con il contagocce della solitudine frenava la sua passione al bello, con la sua passione al bello frenava la sua corsa alla solitudine. Con la sua passione al bello decifrava la solitudine. Lo spettro della solitudine gridava, gridava che essa aveva ritrovato il bene, la pulcritudine e le essenzialità della vita. Gridava di ridar vita, gridava forte che la vita era tornata e che era donare, non danaro, non la forza né il tempo né altre essenzialità, ma una corsa alla forca che imperterviava contro ogni generosità, contro ogni essenzialità, contro ogni ostacolo. Il bene cadeva supino disteso sul letto. La notte lo reinvolgeva nel suo scialle misterioso fatto di lana grassa e smorta. Un vero inferno. Contro il terrore di ogni adolescenza il mio corpo si levava gridando «Evviva la libertà!». Contro del terrore del corpo adolescente si levava il grido unanime «Abbasso la libertà!». Furibonda rimavo fuori della libertà. Se nel divino amore vi è chi paga la strada, non è per niente. Io canto, se nell'amore la gente si lascia e si prende, non è per niente che io scalo le montagne. Se nella montagna vi è chi guarda e chi sogghigna, non è per niente che io cado ai piedi del primo venuto. Tu rubi danni l'antico ereditaggio con cui concubine e ragazze si pegnavano l'anima. Tu rubi i fusti più delicati della pietà e non paghi. Attendi l'ora che suonerà la tua disfatta immagine, attendi l'oro che suonerà la tua precipitosa fuga. Ora tu ti abbigli con gli stalloni della fiertà, domani ti stirerai rotta fra gli stracci della pietà. O Cassandra, le tue occhiaie sono le mie preferite celle di rassegnazione e le tue labbra non suggeriscono altri tormenti che tu non possa conoscere altrove che per questo mio fragilissimo pensare. L'ideale se ne va con voci infantili. L'ideale se ne va infantile e risoluto a cercar voci nell'aldilà. L'ideale è un prodotto borghese dell'agiatezza femminile. La santità dei santi padri era un prodotto sì cangiante che io decisi di allontanare ogni dubbio dalla mia testa purtroppo troppo chiara e prendere il salto per un addio più difficile. E fu allora che la santa sede si prese la briga di saltare i fossi, non so come, ma ne rimasi allucinata. E fu allora che le misere salme dei nostri morti rimarono per l'intero in un echeggiare violento. Oh, io canto per le strade, ma solo il Santo Padre sa dove tutto ciò va a finire. E tu, le tue sante brighe, porterai ginocchioni a quel tuo confessore, ed egli ti darà quella benedetta benedizione che io vorrei fosse fatta di pane e olio. Dunque, come dicevamo, io ero stesa sull'erba putrida. E le canzoni d'amore sorvolavano sulla mia testa, ammalata d'amore, e io biascicavo tempeste e preghiere, e tutti i lumi del Santo Padre erano accesi. Ero io che cadevo dalle nuvole, io. Volevo. Io sapevo. Io credevo. Io distinguevo. Io potevo. 6 20 anni ti minacciano, esterina porta. Qualche filo d'erba torcere anche a me, Dio. Seria e pronta m'inchinerò alle tue gonne, di sapiente fanciulla, troppo stretto il passaggio per il tuo corpo allegro. I miei 20 anni mi minacciano, esterina, con il loro verde disastro, con la loro luce viola e verde chiara, soffusa d'agonie, luci, nuvoli disfatti e incatenati, incatenati dalla limpidità di Dio. Esterina, i tuoi 20 anni ti misurano cavità orali ed auricolari, esterina. La tua bocca pendente dimostra che tu sei fra le più stanche ragazze che servono al di dietro dei banchi. Il verde soppruso del tuo miracolo è per me la prima linea incandescente del mio cuore, la mia schiena infallibile. Il pensiero di te mi inveiva, il pensiero duro di te reale mi smorzava la gioia di te irreale, più vera della tua vera vissuta visione, più lucida della tua vivida dimostrazione, più lucida della tua lucida vita vera che io non vedo. Fluisce tra me e te nel subacqueo un chiarore che deforma, un chiarore che deforma ogni passata esperienza e la distorce in un fraseggiare mobile, distorto, inesperto, espertissimo linguaggio dell'adolescenza, difficilissima lingua del povero. Dissipa tu il pudore della mia verginità, dissipa tu la resa del corpo al nemico, dissipa la mia effigie. Dissipa tu, se tu vuoi, questa dissipata vita, dissipa tu le mie cangianti ragioni, dissipa l'orrore, sposta l'orrore al bene, dissipa tu, se tu vuoi, questa debole vita che si lagna, ma io non ti trovo e non oso dissiparmi, dissipa tu, se tu puoi, se tu sai, se ne hai il tempo e la voglia, se è il caso, se è possibile, se non debolmente ti lagni, questa mia vita che non si lagna, dissipa tu la montagna che mi impedisce